Damn, damn. Del voodoo. Perdi il tuo credo. Perdi il tuo credo. Perdi il tuo credo quando l'universo esplode. Perdi il tuo credo mentre scopri quanto è vero. Perdi il tuo credo, ne cerchi uno migliore. Io tengo saldo il nostro incorruttibile ogni notte, prego. Perdi il tuo credo quando l'universo esplode. Perdi il tuo credo mentre scopri quanto è vero. Perdi il tuo credo, ne cerchi uno migliore. Io tengo saldo il nostro incorruttibile ogni notte, prego. Dov'è che vai quando l'universo esplode? Cade la speranza giù e con quella la ragione. E la tua religione non ti dà più le risposte. La fede viene meno, guardi il muro, strappi il poster e scopri quanto è vero, ripercorri con la mente all'indietro il tuo vano cammino sull'errato sentiero con quelli che hai lasciato sul selciato. Tipi tetri che hai snobbato, non t'hanno perdonato, rinnegato. Cerca nuovi stimoli perché non hai testicoli abbastanza grandi per accettare che si è piccoli come una formica tra i giganti, tra i pericoli di un fetido presente con tentacoli, con spine velenose, sporchi vincoli ed immense ventose. Se cadi nella presa non ti liberi, la gente come te la preda dei mostri che meno consideri, delle creature orrende, nuovi demoni generati dall'inferno di cemento dove assente il sentimento avanza calpestando e divorando quanto può l'essere degenere. Un'altra volta quello in cui credevi lo riduce in cenere. Ricevi un telegramma in posta celere, piglia di Rastop in culo stop. Manco tre parole vuole spendere sto stronzo di destino. Beffardo si fa beffe di noi e ride mentre aggiusta il tiro. E tu gli stai vicino e neanche te ne accorgi. Ci stai vivendo assieme, ne fai parte e te ne scordi di chi ti ha voluto bene. Perdi il tuo credo e il gusto per le cose vere. Perdi il tuo credo quando l'universo esplode. Perdi il tuo credo mentre scopri quanto è vero. Perdi il tuo credo, ne cerchi uno migliore. Io tengo saldo il nostro incorruttibile ogni notte, prego. Perdi il tuo credo quando l'universo esplode. Perdi il tuo credo mentre scopri quanto è vero. Perdi il tuo credo, ne cerchi uno migliore. Io tengo saldo il nostro incorruttibile ogni notte, prego. Perdi il tuo credo quando l'universo esplode. Perdi il tuo credo mentre scopri quanto è vero. Perdi il tuo credo, ne cerchi uno migliore. Io tengo saldo il nostro incorruttibile.